Allora, io partirei da un'installazione, la più facile, Ubuntu, che in 7 mosse installa un Linux, che accetta anche di condividere il disco con Windows. Qua non c'è d'esempio, ma insomma, per forza di cose un po' parlerò anche di convivenza con Windows. Comunque, è anche abbastanza facile trovare un'immagine per installare Ubuntu, cioè un CD già fatto. Altrimenti c'è bisogno un po' che spieghi come si fa un CD di avvio. Anche. Se partiamo da un computer che ha solo Windows, io posso consigliare InfraRecord, che è sempre software licenza GPL, e si va nel sito di Ubuntu, per esempio, è abbastanza facile riuscire ad arrivare al link che ci fa scaricare l'immagine. Ecco, bisogna tenere presente che di solito sono cosiddette immagini ISO, e poi si mette un CD vergine nel computer e bisogna dirgli di scrivere questa immagine nel CD, avendo l'accortezza di spiegare anche a InfraRecord o qualsiasi programma di installazione che si tratta di un'immagine ISO, che non si facciano dati generici o altro, altrimenti non si avvia poi accendendo il computer. Poi, una volta che in un modo o nell'altro abbiamo ottenuto questo CD, bisogna farlo partire dal computer, lo si inserisce, si fa un avvio o un riavvio da dove si è. In quasi tutti i computer adesso, appena mostra qualcosa a video, dice anche come entrare nel BIOS e anche come settare la sequenza di boot. E lì, senza entrare nel BIOS, che magari spaventa un po', si può con un F12, a seconda della marca del computer, ognuno ha un po' il suo metodo, si blocca, e se ci sono più dischi si può scegliere di partire anche da un disco diverso dal primo, quello che invece normalmente fa il computer, e si può far partire il CD. Vediamo sto caso. Parte l'installazione di Ubuntu, ci chiede di che nazionalità siamo, qual è il layout della tastiera italiana, il fuso orario, e poi la parte più delicata, il partizionamento del disco, cosa fare del disco fisso. A me va anche bene se voi scegliete usa tutto il disco per Ubuntu e cancella tutto quello che c'è. Però è predisposto, nel caso in cui ci sia un Windows, per restringere lo spazio riservato a Windows. Normalmente quando si compra un computer con Windows c'è una partizione che contiene Windows e basta. Quando Ubuntu fa il partizionamento, se noi decidiamo di riservare solo una certa percentuale a Windows, si tiene per sé il resto e crea due partizioni. Ubuntu cerca sempre di creare un'altra partizione primaria e crea una partizione estesa, piccola, con all'interno una logica, e ci mette la partizione di swap. Troppe cose? Oddio. Windows, cioè Linux di solito funziona almeno con una partizione che contiene tutto il suo file system, almeno, e un'altra per da utilizzare se esaurisse la memoria durante il funzionamento, lo usa il disco come fosse la memoria, cosa che fa anche Windows, solo che generalmente non si riserva una partizione per fare questa cosa. Scusa, e almeno in passato Linux si collocava bene in una partizione non primaria, cioè dentro la partizione estesa faceva una partizione e funzionava, non era necessario avere due partizioni primarie. Sì. Non è necessario avere due partizioni primarie. C'è ancora. La cosa da tenere presente è che c'è un limite al numero di partizioni primarie. Le cose funzionano benissimo con una partizione primaria, quasi sempre. Con una partizione primaria, il resto una partizione estesa con all'interno, diciamo, quante vogliamo partizioni logiche. C'è qualcuno che non ci sta. FreeBSD per esempio vuole una partizione primaria, vuole anche praticamente gestirsi un disco per sé. Questo però volevo vederlo più avanti. Il punto è che si possono creare quattro partizioni primarie e non di più, cioè se ci creiamo quattro partizioni primarie, beh, abbiamo finito, di lì non ci si muove più, le possiamo solo ridimensionare se vogliamo, ma più di 4 non ne possiamo creare. Quindi al massimo 3 partizioni primarie, perché il resto ci creiamo una estesa dove dentro possiamo creare le varie logiche per averne di più di 4, per oltrepassare questo ostacolo delle 4. È una specie di stratagemma, insomma, la partizione estesa per poterne avere un totale di più. Dunque, sì, dicevo, il partizionamento con Ubuntu si decide quanto riservare, lui fa sempre questo, crea, se non gli diciamo diversamente, cioè se gli diciamo di fare un partizionamento automatico, deciso quanto in percentuale vogliamo lasciare a Windows, lui crea una partizione di una partizione primaria dove metterà tutti i suoi dati, quella che anche Debian dice per utenti non esperti, mettiamo tutto in una partizione, e questa di swap che la mette in una estesa. Bene. Successivamente poi dice un altro paio di cose, se si vuole importare l'account anche da Windows, cosa che in pochi fanno, insomma non è molto interessante. E poi prima di cominciare la vera e propria installazione chiede conferma, e lì è bene dare un'occhiata a quello che sta per fare, perché lì dice formato questa partizione e questa, insomma, dagli un'occhiatina. Poi c'è un bottoncino avanzate, opzioni avanzate, non c'è molto, però c'è una cosa fondamentale per noi, oltre a quando si schiaccia quel bottoncino, oltre a se vogliamo partecipare a le statistiche sull'uso dei pacchetti di Ubuntu o meno, ma molto più importante ai nostri fini, possiamo dire dove andare a mettere il bootloader. Allora, parlo un po' di cosa succede quando si accende un computer. accendendo un computer parte un programmino in memoria non volatile residente nel computer, il BIOS, che fa una serie di controlli di funzionamento dell'hardware e guarda un po' i dischi in che situazione sono e passa un po' di dati al master boot record, che poi si incarica di far partire il tutto. Lasciando un attimo in sospeso questa cosa delle opzioni avanzate, del dove andare a installare, e che se non si usano quelle opzioni avanzate, Ubuntu va a scrivere GRUB nel master boot record e crea una struttura, un menu simile a questo. Adesso è più personalizzato questo, ma insomma un menu che dopo un po' fa partire Ubuntu, ma che se lo si ferma con le frecce si può scegliere di far partire Windows. Allora, dicevo, alla fine dell'installazione di Ubuntu viene creata questa struttura e quindi in sostanza al posto del bootloader di Windows viene messo GRUB. Per personalizzare GRUB, avviata Ubuntu, perché abbiamo scelto quella per il momento, c'è un semplice file di testo che è nella directory /boot/grub e il file si chiama menu.lst. Lì possiamo già cominciare a personalizzarcelo un po'. Allora, di suo partiva Ubuntu, magari alla nonna non piaceva perché Ubuntu lo usiamo solo noi, lei non ne voleva sapere, insomma, volendo ogni istanza, ogni sistema operativo circa, dopo chiarirò un po' meglio, partendo da 0.0.1, sì, 0.1.2 si riferisce a, nella lista, chi far partire, si trova default, cioè l'istanza default nel file, e si può specificare un numero. Per me è più interessante, al posto di un numero, magari mettere saved. Perché con saved, specificando un'altra parolina in ogni istanza che si vuol far partire in automatico, fa partire l'ultimo che è stato l'ultima volta chi è partito, si fa partire lui. Ma che si scrive, scusa, saved? Saved. Default saved. Sicuramente interessante è anche il timeout, cioè il numero di secondi dopo i quali parte se noi non facciamo niente, fermo restando che se tocchiamo qualcosa, anche la barra spaziatrice o le frecce per scegliere qualcos'altro, resta così e non si muove. I secondi di Tom, poi un po' di coloretti, volendo, come ho fatto io, un'immagine di sfondo che poi vedremo forse come si può anche creare. Deve avere un formato particolare, ma si può facilmente fare da un'immagine qualsiasi. Bisogna ridurla a 640x480 e 14 colori, poi salvarla in un formato specifico e andargliela a dire per esteso sempre nel file di configurazione di gruppo. Un'altra cosa interessante che si può fare è settare una password.